in primo piano. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, sono Lionello Mancini, ci conosciamo già, ci siamo sentiti anche in altre occasioni e sono qui anche oggi per leggere con voi i giornali. I giornali sono piuttosto oggi omogenei, diciamo, tra loro, nel senso che vi dico almeno due o tre cose che ritroveremo su tutti i giornali. Poi chiunque di voi ha le sue preferenze sceglierà la testata a cui rivolgersi in edicola. Troverete su tutti i giornali, più o meno, delle grandi foto del viso stravolto di Paolo Maldini, il calciatore del Milan che ieri ha giocato la sua ultima partita a 41 anni e improvvisamente, per una serie di ragioni coincidenti, è stato fischiato, è stato contestato lui insieme al presidente del Milan Berlusconi, in quel caso come società del Milan, contestato dai tifosi con fischi, striscioni, eccetera. Il viso stravolto di Maldini è una testimonianza della sorpresa e della sofferenza che si legge nella faccia di questo giocatore che probabilmente si aspettava un finale, diciamo, di carriera ben diverso. Un altro tema che è su tutti i giornali è quello ovviamente sollevato dall'articolo di ieri di Repubblica, che continua a scavare sulla vicenda del Presidente del Consiglio e di questa giovane napoletana Noemi. E infine, sempre sui giornali di oggi, il caso Fiat Opel. Molti ormai titolano sul caso Opel, ma si tratta di questa grossissima operazione finanziaria che sta andando verso le battute finali. Ma troveremo delle cose interessanti e di approfondimento, queste sì che distinguono i vari giornali tra loro. Vorrei cominciare da Repubblica. Repubblica, a parte l'ovvio titolo, visto che è il giornale che sta più lavorando su questo caso Noemi, il titolo di apertura quindi è "Caso Noemi, il premier sotto assedio, il PD dica la verità", però quello che ho trovato molto interessante sulla Repubblica nella sua prima pagina, e ci rinvierà all'interno, è il reportage di Bernardo Valli tra le vie di Baghdad che torna a vivere, e anche un articolo di José Saramago che, quando le pandemie sono figlie del business, che torna e che introduce un dossier di alcune pagine all'interno del giornale su questo caso di queste pandemie, cioè di queste grosse epidemie, in questo caso l'ultima, se ricordo, come sapete probabilmente, quella della influenza suina. Allora, ancora sulla prima pagina di Repubblica, il vincitore, anche questo lo troviamo su tutti gli altri giornali ovviamente, il vincitore di Cannes è Il Nastro Bianco, una palma annunciata, scrive Natalia Asperi sulla copertina di Repubblica, e anche addio al Nobel Fürsgott, curò il cuore, trovò il Viagra. Il ricercatore e Nobel di una decina d'anni fa, se non ricordo male, che dai suoi studi sulla circolazione sanguigna, degli studi iniziati per il suo shock che ebbe durante la guerra, quando di sangue ne vedeva scorrere tantissimo e tante arterie doveva riparare, nacque questa passione per la circolazione sanguigna, e da questa passione nacque poi la scoperta del Viagra, il farmaco contro le disfunzioni erettili, che ha portato peraltro un business colossale alla Pfizer, alcuni miliardi di euro. Allora cominciamo dalla copertina di Repubblica, dicevo, passeggiando tra le vie di Baghdad che torna a vivere. Il Shambadar Café è uno storico ritrovo di artisti nel cuore della città vecchia, dove per anni era meglio non inoltrarsi. Nel marzo 2007 un'automobile imbottita di dinamite imboccò via Al Muntebei e distrusse il caffè e le librerie vicine, non risparmiando uomini e donne che si muovevano in quel momento nel quartiere. Ritorno al Shambadar Café, ricostruito dopo un imprecisato numero di anni. È mezzogiorno e trovo tutti i tavoli occupati. È così che comincia il reportage di Bernardo Valli, inutile presentarlo, ovviamente una grandissima penna, un grandissimo inviato estero di tanti giornali nel corso di tanti anni, e all'interno troverete due pagine intere di questo reportage che in sostanza è una tappa di avvicinamento al fatto che gli americani a fine giugno si ritireranno da Baghdad e l'esercito iracheno li sostituirà nel controllo e nella, della, della città. Natalia Aspesi, dicevo, che solleva un tema nel parlare del premio, nel premio Palma d'Oro di Cannes, solleva il tema che è quello sollevato dal film e dice: vince la Palma d'Oro il film più inquietante di una mostra segnata da storie di sangue e violenza, Il nastro bianco, del maestro della crudeltà umana, l'austriaco Michael Haneke, racconta in un meraviglioso bianco e nero, senza immagini cruente, come nascono le radici del male. All'interno, ovviamente, grandi servizi sulla su questo appuntamento che è terminato ieri. Trionfa il cinema in nero, non è tempo di glamour, sangue e violenze nelle opere premiate. Ancora l'articolo della Aspesi che dice: pochi divi ma molti attori giovani e bravi, e nessuno ne ha sofferto. Come a dire, c'è un ricambio nel mondo del cinema che non ha fatto soffrire gli spettatori e la critica, anche se mancavano i grandi nomi, le grandi dive. Lo dicevo anche prima, siamo sempre su Repubblica. Addio a Nobel Farshgot è un articolo di Vittorio Zucconi che inizia in pagina 1 ma continua all'interno a pagina 21. Un articolo abbastanza interessante. Studiava l'angina, scoprì il Viagra, così la pillola blu ha invaso il mondo. Addio a Robert Farshgot, per le sue ricerche vinse il Nobel del 98. L'ossessione per gli studi sulla circolazione gli nacque sui campi di battaglia. Nell'autobiografia di questo ricercatore scomparso, nessun cenno al medicinale, che ha fruttato alla Pfizer 8 miliardi di dollari. Questo dunque l'articolo di Zucconi sulla vita di questo Nobel scomparso ieri. Si diceva del caso Noemi e poi abbandoniamo per un momento Repubblica. C'è un articolo di Gad Lerner che mi sembra interessante perché dà un'indicazione che poi ciascuno potrà, se vuole, sviluppare per conto suo, sia finendo di leggere l'articolo sia su internet. Scrive Gad Lerner: forse ora la smetterà di insistere sulla propria esuberanza sessuale, sulle belle signore da palpare anche tra le macerie del terremoto e sulle veline che purtroppo non sempre può portarsi dietro. Io ovviamente non sto a ricordare l'intera vicenda degli ultimi sviluppi, immagino che chi è interessato se lo sia già letto e immagino che gli altri, se non sono interessati, non sto a tediarli. La cosa interessante è che a un certo punto Lerner dice: di recente Lorella Zanardo e Marco Maldi Kindemi hanno riunito in un documentario di 25 minuti le modalità ordinarie con cui il corpo femminile viene presentato ogni giorno e a ogni ora delle nostre televisioni, con una ripetitività, con una ripetitiva estetica da strip club che le differenzia dalle altre televisioni occidentali, non perché altrove manchino esempi simili, ma perché da nessuna parte si tratta come da noi dell'unico modello femminile proposto in TV. La visione di questa sequenza di immagini e dialoghi è davvero impressionante. Consiglio di scaricarla da www.ilcorpodelledonne.com. Viene da pensare che nell'Italia clericale del si fa ma non si dice l'unico passo avanti compiuto nella rappresentazione della donna sia stato di tipo tecnologico. Plastificazione dei corpi, annullamento dei volti, connessa alla personalità, fino a esasperare il ruolo subalterno, spesso umiliante, destinato nella vetrina popolare quotidiana della figura femminile senza cervello. E così, questo è l'articolo di Lerner che suggerisco appunto di leggere e poi sicuramente anche io oggi andrò a vedere questo sito che cosa indica questo impatto di cui parla Gad Lerner. Veniamo a delle cose più serie forse, o comunque diciamo più collegate alla nostra vita quotidiana. Il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore ci propone una attenta analisi su come vengono utilizzati, siamo in vista delle elezioni europee, come sapete il 6 e 7 giugno si vota, come vengono utilizzati i soldi che noi diamo, che tutti i Paesi membri danno all'Europa. Il titolo del lavoro di scavo, diciamo così, di analisi è 100 euro per l'Europa e ci dice il Sole 24 Ore che la spesa per il funzionamento delle istituzioni è il 6% del bilancio. il 6% del bilancio, quindi ogni 100 euro 6 vanno per il funzionamento, che poi significa insomma le spese che forse si potrebbero anche rivedere, comprimere o comunque utilizzare meglio. Sotto, nel taglio centrale, pubblico impiego, punite le mancanze ingiustificate. Basteranno 3 assenze per licenziare lo statale. Il titolo effettivamente per chi è statale fa abbastanza impressione, quindi fa venire voglia di andare a vedere l'articolo, e dice: non saranno solo i certificati di malattia falsi a mettere in pericolo il posto di lavoro dei dipendenti pubblici. Il licenziamento infatti potrà arrivare anche con 3 giornate non consecutive di assenza ingiustificata in 2 anni, o con 7 assenze in 10 anni, oppure con 2 anni macchiati dalla valutazione di insufficiente rendimento quando questa è dovuta a violazioni degli obblighi contrattuali o di legge. Le previsioni sono quelle dello schema di decreto attuativo della riforma del pubblico impiego trasmesso la settimana scorsa al Parlamento. Quindi ci sarà sicuramente modo, sarà possibile forse che vengano introdotti dei cambiamenti, però la linea sulla disciplina nel pubblico impiego mi sembra abbastanza netta e abbastanza tracciata. Quindi forse certificati falsi, assenze di malattie di comodo dovranno diminuire come sono già diminuite, e c'è una legge che arriva a inquadrare tutto questo. Vediamo ancora, dicevo prima, lo scavo del Sole sui costi dell'Europa. La burocrazia assorbe 8 miliardi, leggiamo a pagina 3, il 6% del bilancio viene utilizzato per il funzionamento delle amministrazioni. C'è ovviamente e giustamente una tabella che ci ricorda i compensi degli eurodeputati: 3.946 euro di indennità, stiamo parlando ovviamente al mese, 15.496 euro il rimborso annuo per pagare gli assistenti, e 5.000 euro è il contributo annuo per i deputati che vogliono migliorare il loro corso, la lingua che dovranno poi parlare a Bruxelles o a Strasburgo. Gli statali, lo dicevo prima, c'è una pagina intera sulla riforma del pubblico impiego, c'è anche l'osservazione, attenzione, che graduatorie troppo rigide e queste rigidità nei regolamenti aprono il via alle cause. Ancora il Sole 24 Ore, siamo a pagina 7. Il piano casa parte dalle regioni. Pronti 11 testi e progetti di legge per regolare ampliamenti e demolizioni. Ricordate il piano casa di cui aveva parlato il governo e su cui sta lavorando il governo? Un piano casa che aveva avuto uno stop perché era necessario, data la suddivisione di poteri tra centro e amministrazioni locali, e era necessaria concordare delle linee di intervento con le regioni. A questo punto le regioni, trovato un accordo di massima con il governo, stanno cominciando a fare la loro parte, e quindi, come dice il Sole 24 Ore, il piano casa parte dalle regioni. Ancora il caso Toscana: l'intervento deve essere consentito dagli strumenti urbanistici comunali. Via i lavori solo se lo prevede il sindaco. Questa è un'altra articolazione di questo tema, poiché oltre all'articolazione appunto regionale ci sono poi i comuni che agiscono all'interno delle regioni, e quindi insomma il quadro di raccordo tra tutti questi livelli legislativi e amministrativi non è per niente semplice. Comunque qualcosa si sta muovendo. A pagina 13 infine, in vigore 1.656 leggi inutili. Sempre il Sole ci ricorda che tra gli oltre 7.000 atti, quindi leggi anteriori al 1970, se ne salveranno 2.500. Le leggi a cui siamo attualmente sottoposti, ricordiamolo, sono 17.109. Le più vecchie sono 7.533 e sono in vigore da prima del 1970. Diamo adesso la linea al traffico. In primo piano. Eccoci ancora qui a leggere i giornali. Veniamo al Corriere della Sera, nella cui prima pagina troviamo la consueta rubrica del lunedì tenuta da Francesco Alberoni: come si può scoprire la vera vocazione dei ragazzi. Certamente è una rubrica molto veloce, diciamo, e anche settimanale, quindi non può essere sempre una genialità, però devo dire che Alberoni coglie molto spesso dei temi, quantomeno dei temi, non diciamo dà delle soluzioni o fa delle analisi esaustive, però coglie dei temi che sono sicuramente di attualità. E quindi dice: esiste una vocazione, chissà in quante famiglie ci sono ragazzi che devono trovare o cercare una loro strada, e dice: esiste una vocazione, e se esiste qualcosa che ci indica una professione specifica o è piuttosto una propensione, un interesse, un'attrazione verso un campo di attività, e come facciamo a riconoscerla, a trovarla? Ecco, questa è l'impostazione della sua rubrica, una breve rubrica. Chi legge il Corriere della Sera gliela segnalo, specie se ha figli che stanno scegliendo il loro futuro. Sempre sulla prima pagina, titolo di apertura: Berlino alza la posta per Opel, i tre piani ancora insufficienti, Merkel preferirebbe la Fiat. Secondo la stampa tedesca, il lingotto non prevede modifiche degli impianti in Italia. E qui c'è appunto il tema principale che il Corriere della Sera vuol mettere al primo posto, e quindi corredato dalla vignetta di Giannelli, sempre simpatico. Avrete, immagino, presente l'icona di Marchionne, il manager della Fiat, che molto spesso è senza cravatta, con un golf, è spesso spettinato, eccetera. E quindi ci sono i tedeschi che parlano tra loro e dicono: come facciamo a fidarci di questo italiano? Non ha neppure i soldi per comprarsi un vestito. Una cosa simpatica. Noi siamo abituati, e può essere pure che invece all'estero questa immagine faccia appunto un effetto di questo genere. C'è un articolo che rinvia alla pagina 9, un articolo di Rizzo: i 16 super commissari rimasti nel cassetto. La lista dei 16 commissari alle grandi opere pubbliche era pronta, una per ognuna delle infrastrutture strategiche per il paese, impacchettata per il via libera del Consiglio dei Ministri della scorsa settimana, all'ultimo momento è stata rimessa nel cassetto, tutto rimandato. Negli ambienti della maggioranza, dove i commissari sono difesi a spasa tratta, si rigetta la tesi che tutto si sia bloccato a causa di contrasti politici o scontri fra poteri. Le ragioni del rinvio a data da destinarsi sarebbero altre. E c'è poi appunto all'interno l'analisi di queste grandi opere. Stiamo parlando dal ponte sullo stretto al Mose, quelle dighe mobili nella laguna di Venezia. Ecco, dice: Italia le grandi opere, dal ponte al Mose, bloccate le nomine dei 16 commissari, fermata sul filo di lana la lista dei nomi, il decreto anticrisi approvato da 6 mesi. Scrive tra l'altro Rizzo: da quando il governo ha varato il decreto anticrisi con le misure urgenti, ribadisce tra parentesi con il punto esclamativo, per far ripartire l'economia, tra cui figura proprio l'istituzione dei commissari per mettere il turbo alle opere infrastrutturali che procedono a passo di lumaca, sono passati 6 mesi. 4 invece da quando il Parlamento ha convertito definitivamente in legge il provvedimento. Ma dei famosi commissari nemmeno l'ombra. Si dirà che per i tempi italiani, dove le decisioni si prendono al ritmo delle ere geologiche, 4 o 6 mesi non sono niente. Peccato soltanto che gli effetti della crisi non aspettino i comodi della nostra burocrazia. E così è la pagina 9 del Corriere della Sera. E un'altra pagina di un certo interesse è la pagina 11 del Corriere della Sera. Il paese e la crisi, siamo sempre quindi su questa tematica di come cambia il paese o cosa fa il paese per affrontare la crisi. Secondo i dati ACLI-COLF, sono per lo più sposate, separate o vedove di età superiore ai 40 anni. Di chi stiamo parlando? Delle italiane che tornano a fare le colf. Si dedicano alle incombenze domestiche di pulizia, stiro, cucina, mentre le immigrate continuano a occuparsi delle persone anziane o malate. Cercano impieghi a ore per arrotondare, e ormai 1 su 4 non è straniera, e dunque tornano le colf italiane che erano scomparse una quindicina di anni fa. Lavoro in nero. La responsabile dell'associazione appunto ACLI Colf, Pina Brustolin, dice: poche chiedono un contratto regolare per guadagnare di più, ma anche per vergogna. Il mestiere di collaboratrice domestica è considerato un ripiego da abbandonare appena possibile, ma non tutte ci riescono. Ecco che il Corriere della Sera ci presenta questo quadro. Ho ancora pochissimi Secondi, vi segnalo sempre dal Corriere della Sera un articolo di Giulio Giorello, pagina 27. Per far crescere la scienza bisogna abbattere gli idoli. Un volume e due convegni celebrano Eugenio Colorni. Gli scritti filosofici e autobiografici a 100 anni dalla nascita. Bene, Colorni è una figura che io non è che conoscessi bene. Questo articolo di Giulio Giorello è di grande interesse. La stessa biografia di Colorni è una storia straordinaria che vi invito a leggere sui giornali di oggi. Grazie a tutti, ci sentiamo domattina.